e 1,5. Sono dimenticato di portarti quella cosa, che stupido, oggi sono uscito veloce, l'ho appoggiata nel coso, me ne sono potuto dimenticare, domani penso di portartela, va? Ripeto, non è urgente, non ti preoccupare, quando ti ricordi lo prendi, così vediamo se riusciamo a recuperarlo. E io la facciamo così. E intanto ce l'hai quello nuovo adesso, stenditi, quando ti capita mi mandi un messaggio, passo e lo prendo, capito? Però rimaniamo d'accordo così. Ia, non problema. Più basso sono di segnale. Ehi, con questo, col Galaxy, il segnale non è preciso, ma già stai arrivando bene. Perché l'antenna è un po' confusa. Perché stazionale c'hai? È un pochino, un po' alto, a 1,5. Già si può parlare lo stesso. Ehi, io va bene, stendini. Sono tutti rumatesi di petto vanno, poi quando si asciuga dopo già vanno bene. Lo so, hanno tutti lo stesso difetto, purtroppo, casino. Certo. La manta va, la cimpolla non va tenuta. La ghiccia, mamma mia. E cosa va? Hola. No, ma già stai arrivando bene, non ti preoccupare. Gappa, scusa il microfono, torra. E ogni tanto sgancio, cosa va sul microfono? Pluisci. Ma cosa sta succedendo al microfono? No, sta uscendo bene, c'è problema. Lo so, però vedi. Boh, chissà cos'è. Ehi, forse è come lo stai tirando, non lo so. No, non ne tiro io, no. Non lo saccio. Sta a prendere a carraglio. E cosa vuoi dica? Eppure non ne tiro mai. Non lo so. Comunque già stai arrivando bene, non ti preoccupare. No, per quello non c'è problema. È che secondo come ti muovi non dà problemi. Ah, secondo come muovi il coso? Boh. Fare ad un raggio pure a chi c'ho messo. Torna a far vedere cosa boh. Boh, non lo saccio. Mi ha tanto che c'è il raggio, boh. Va bene, dai, Clarissa, ti lascio. Ci sentiamo un po' più tardi, va bene? Ehi, Anto, va bene, non ti preoccupare, più tardi. Dai, ti avviso quando te lo porto quella roba là. Ehi, non ti preoccupare, ti ho detto, giusto per recuperarlo, perché può sempre servire. Voglio tagliare, vedi dove è interrotto, capito? Tanto quello nuovo ce l'hai. Già ci sentiamo più tardi, dai, ciao. Ehi, non ti preoccupare, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, Anto. Prima di vedere i Ehi, qua, ma cosa c'è? Genero. ma come ne più di bella sei tu prima cosa, ma telefonato mi hai? Perché ho visto una telefonata tua. Sì, e tu telefonato mi hai, ti è partita la chiamata. Io ti ho chiamato perché ho visto che mi hai chiamato tu prima. Vuoi ripetere, Clara, non ti ho sentito? Ti ho detto che ho visto una chiamata tua, per quello ti ho chiamato. Io non ho chiamato. Eh sì, c'erano due chiamate addirittura. Sicuramente ti è partita qualche chiamata. Ho visto che mi hai chiamato, ti ho chiamato anche io. C'è un disturbo, c'è tremendo. Un disturbo c'è, aspetta che aumento la potenza. Avanti, Brecco. Dove sei? Vabbè, ma già ti arrivo, già mi arrivi lo stesso, non c'è problema. Tu mi senti? Cosa stai provando? Lo Saturnetto? Già va bene, già ti sento bene, però sei basso di segnale. Non so se Natalino ti ascolta. Natalino, senti a Carlo. No, negativo, perché c'ho questo disturbo Santiago 9 addirittura, è per quello che ti ho detto che ribasso qua, perché c'avevo un disturbo tremendo. Vabbè, adesso ho aumentato la potenza, mi senti meglio? E adesso già sei tutto interivellato. Oh, buona la radio. Questa sì che mi piace. Questo è il Saturneco Turbo. Saturn Turbo, no? Ecco non è. Questo è il Galaxy Saturn Turbo, 100 watt. Gara, questo già va bene. Problemi ci sono, no? Bella la modulazione, non senti i rumori, tutto a posto. Tutto capagara. Meglio così, dai. Carlo, e tu? Come mai sei in garage? Positivo. Natalino c'è un disturbo e quindi ti sente un po' basso ti ascolta, capito? Natalino, ho tirato su la preamplificazione, è troppo alta così e va bene. Va benissimo, va, lascialo così. Cappa di rocio, magari stasera entra qualcuno e mi dice di abbassare. Vabbè, dai, la lasciamo così comunque. Ok, va bene Carlo, capo di Rosmetro. Vabbè, questo c'è un bel di watt però la radio, Guarda, così sono con 100 watt e così invece è con la potenza minima della radio, molto scende. Lo lasciamo stare così allora, a 100 watt. Perché c'è stato fatto un lavoro, un bellissimo lavoro, capito? E quindi va bene così, dai. Solo che c'era un filo che stava toccando male, ecco perché ieri c'avevo un rumore. Adesso l'abbiamo messo a posto. Ehi, sono qua in ascolto io, là c'è anche Natalino intanto. Ma cosa sta facendo Carlo? Chiudi una lettera. È in garage che stava facendo roba. Ha detto che adesso già sale a casa. Era ora. E si conferma. Piovendo sta sempre. Piovendo solo sta, c'è un QRM allucinante. Perché a sé non sta piovendo? Sì, sta piovendo anche qua. Arriva giù roba di stazionarie. Sono sotto a colluattore, sennò un cavolo fosse modulare. Vabbè, adesso è già arrivato il tempo buono, dai. Si mette tutto a posto. Non c'è problema. Vediamo al più presto. Dovrebbe essere ancora oggi, domani forse, poi da domenica dovrebbe riprendere il tempo bello. Andrà bene, Meda. Sono anche stufo di avere l'antenna qua. Vabbè, un po' di pazienza deve avere ancora. Già arriva il tempo bello, vai. Sì, almeno sento anche di più, capito? Perché la metto più in alto, così è troppo bassa. Sicura, non rintendo. E si conferma. Vabbè, comunque già arriva il tempo bello fra un po', dai. Così è tutto a posto. Oh, signore bene dentro. Allora famo un caffè, dai. Comunque confermi che va tutto bene qua, Natalia. Alla grande, guarda, fatto il caffè, io me l'ho già preso, c'avevo un impegno e mi è saltato, vabbè. Ehi, lascio tutto acceso qua, tanto sta arrivando a Carlo. Vado a prendere un caffettino, ci sentiamo subito. Gara. 10. Parlare se siete. Cicù canale 10, c'è qualcuno qua? Ora. Avanti Lola. Uè, Natale. Oh. E vai a fare il che? Mi consegnare quel foglio venerdì prossimo. E si conferma Natale, si conferma. Tanto non è iniziato niente ancora, l'hanno rinviata. Sì, meglio, intanto c'è brutto tempo fuori, sta scendendo l'aria. Ma voi essere contenti, eh? Beh, Claudie. 200 euro di bonus, hai capito? Gente, ancora già non si vede niente. No, no, lo vanno, da luglio. Penso da luglio sino a luglio, adesso non mi ricordo. Comunque ci sono 200 euro di bonus. 200 euro di bonus. Ma una volta ti deve passare, non è che per sempre. No, non lo so per quanti mesi è, non lo so. Stavo ascoltando la televisione. Anch'io l'altro giorno stavo sentendo, però a quanto pare una volta e basta. Ecco, ci abbia il culo, una volta e basta. Ti copri una cosa che ti serve. In spesa. E non basta neanche a fine mese. Già va bene. Chiappa di rosmetro, bene ti sta arrivando col Galaxy. Forte e chiaro qua, Claudio, va bene. Bella modulazione, va bene anche come segnale, no? Tutto a Rogero, niente da dire. Bello. Va bene. Così usiamo anche questa un po', che era la moto che non la stavo usando. Così lo fai girare, lo fai scaldare. Riprendi la tarina. Un attimo di Quirix che devo cercare una cosa. Davvero caro. Gava. Così è, Claudie, così è. A piove da quelle parti. E sono massimo di fare. E tutto il giorno che sta piovendo. Meno male. Sono andato prima a prendere il bambino alla scuola, sennò ho avuto la pazzone di prendere. Perché qua sei andato a piedi? No, in macchina, ma faccio prima a piedi alla fine, anche se qua su. Capito, devi proteggere appunto il casino la macchina per arrivare alla scuola. Tu che sia Ugilo, guarda che l'attore Manno, c'è una 147. Mi pare sia del colore della tua, se c'è roba che ti serve, che la deve demolire, deve fare pulizia lì, che si sta trasferendo, se c'è roba che ti serve, fatela dare, prenditela, a me me la voleva dare, ma è diverso colore, capito, ci sono specchietti, cerchi, ci sono due sportelli nuovi, lo sportellone. Capa di rosmetro, vediamo che ci passi. Il muso, cos'è? Ci hai dato il muso per caso? No, ho visto che è in buone condizioni, non so perché, forse perché la fusa, non so, capito, non so, io ne ho pezzi della mia, perché ce l'aveva mio genero quella macchina, capito, quindi quando l'ha demolita mi ha dato tutti i pezzi interni, esterni. Cava, già ti faccio, grazie qua, per mi avvisato. Vediamo già, riusciamo a concludere. È sempre meglio averne pezzi. Allora, l'ho detto, a me manca addirittura di portarmela via intera, ma io non la metto qua, cioè, poi rimane in mezzo ai piedi ed è un casino, capito? Quindi ti ripeto, ne ho pezzi, c'ho un sacco intero, una cassetta anche, dall'interni, pezzi, specchietti, alza il retro. Perché non li trovi poi, mi capito? Non li trovi, te fanno pagare una barca di soldi. E si conferma. Io sto cercando uno scambiatore di calore, acqua e olio. Per il mio collega di Sassi, della Croce Blu, che l'altro giorno sono andato a fare l'italiano, apriamo il cofano, cavolo, c'era, aveva scritto tutta piena d'olio. Quello lì è buono, basta salire, sali col tuo collega e lì nel piazzale sotto, capito? Apri il cofano, il coso motore, guardi, se ci sono pezzi che ti interessano ti imbigli, scusa. Cava. Adesso ve lo dico. finiamo, magari anche lunedì o domani, vabbè, sabato che è chiuso. Vedi un po'. Perché ti ripeto, a me mi voleva dare un sacco di roba, però deve essere colore, tocca poi verniciarla, farla. Io ho pezzi della mia che sono tutti dello stesso colore della macchina, capito? Perché è lo stesso colore. E quindi c'ho roba. Va bene. Vai, e vedo un po'. Chiara, chiara. Bene, veda. Già ci organizziamo e vediamo già se riusciamo a recuperare. E si conferma, va bene così. Che raga, oggi le mamme scosse invece hanno rinviato a venerdì, con problemi tecnici. Magari Antonio, c'è roba da fare, non lo so. Può essere, ma va bene, già abbiamo tempo intanto. Sì, già ce n'è tempo, prossimo a ottobre, quando li fanno? Le fanno a giugno? No, mi sa che tra ottobre o novembre, ce la dare di preciso la data. Sì, non le fanno più, prima facevano due sessioni all'anno, adesso è tutto cambiato da quando è online, capito? Però sicuramente li faranno come hanno fatto l'anno scorso, li hanno fatti a ottobre, cioè ottobre e novembre li hanno fatti. E a quanto pare sono lo stesso online, ma forse anche meglio online, non lo so. È meglio da niente, a me retta, sia a casa tua, è meglio online, non c'è problema. E poi dura 10 minuti la cosa, capito? 10 minuti online, sei a casa tua, non devi viaggiare, non devi fare, perché c'era l'intenzione che si facevano a Roma, tempo fa avevano detto così, adesso online invece ognuno da casa sua, capito, si collegano, tu vedi tutta la commissione per intero, tutta la videata sul computer, intero, invece buon viaggio, 10 minuti dura qua, 10-15 minuti. Bene, avevo fatto quella per il patentino movimento terra online, il primo corso online che avevo fatto, diciamo, e mi è piaciuto, diciamo, è stato tutto diverso, dai, più tranquillo, più sereno anche, capito? Allora, ma stai scherzando, sei più rilassato, è un'altra cosa che io, ti ripeto, ho partecipato quando se l'ho presa Roberta, se uno è preparato è una coglionata. E si conferma. Vediamo, questa volta c'è per forza riuscire, ce l'ho passare a tutti i corsi. Daniele, se stai attento e ti prepari, ti ripeto, vai tranquillo e sereno, se poi non sei preparato allora è un'altra cosa. Sì, anche perché queste le ho già fatte a scuola, sia le professionali che le industriali le avevo fatte, quindi un po' già sono avvantaggiato, dai. E allora se le hai già fatti, che problema c'è? Ricordarsi le cose, piano piano, fare esercizi, fare quiz e compagnia cantante. Vabbè, però ti ripeto, se stai andando anche al corso, stai attento, poi al corso fate anche pratica, capito? Così mi aveva detto Antonio, quindi se c'è anche la pratica, oltre alla teoria, è più facile poi. E infatti, è così, poi c'è anche il libro, e c'ho tutto, non c'è poco da sbagliare, guarda. Allora vai sereno, stai tranquillo che problemi non ce ne sono. Chiara, Natalia ci sei? Natalia sta ancora facendo. Ehi, lascialo fare, sicuramente è impegnato a fare qualcosa. Chiara, e va bene. Per il resto, tutto a posto? Ah, possiamo lamentare qua. Va bene. Ieri ero lo stesso a fare un trasporto e ciccia. qualcosa la stiamo facendo, dai, piano piano. Ma chi paga quando fate queste cose? Quello che trasportate oppure il comune? No, chi trasportiamo, capito? È privato, a meno che non ci sia assistente sociale o altri enti di mezzo, e quindi viene agevolato, capito? Ho capito, ma i contributi niente? I contributi niente. Pensare quando ha iniziato la Croce Verde al Soccorso Sardo, si sono fatti ricchi, cazzo. Lo so, perché appunto per questo motivo, guarda, la gente ci ha speculato. Mangiato il sole, adesso sta andando proprio con le mani di piombo, c'è da fare, guarda, una serie di cose. Infatti adesso il prossimo mese c'è il bando proprio per avere i contributi, e addirittura adesso vogliono o un medico o un infermiere in associazione, anche se non frequenta, tra gli iscritti, per poterle scrivere poi l'ambulanza nel sanitario, per avere poi tutti i contributi, assicurazione, rimborso gasolio e compagnia bella. Ma che idea, bambù. È così purtroppo. Quindi adesso siamo riusciti a spese nostre, a portarla in carrozzeria lì a Osio per farci fare l'attacco agli adesivi e dare una sistemata, diciamo, una rifrescatina, lucidatura e per ringiovanirla un pochino, capito? Perché quella sì, cioè, è stata donata tanti anni fa, non si era riconosciuta l'impresa Manta di Osio, e ci avevano donata. L'impresa Manta di Osio, mi pare di sì, ma cioè mi sta chiamando Anna, Daniele, un secondo. Cappa. E chi è? Beh, gente mala. Buonasera. Mi hai riconosciuto chi è? E me, fra. Ciao Daniele, ciao. Da solo sì qua, non c'è altro nessuno. C'è Claudio che si è allontanato un attimo e Natalino lo stesso, si è allontanato anche lui. Andava. Faccio la caffeina. Ah, lo so, se sta facendo caffeina o che cosa. Però sono spostati tutti e due. E tu? Io a casa. E proprio stasera è stata arrivata la sezione chiusa stasera, perché dice che c'era gente che praticamente c'era qualcuno malato con influenza e quindi non hanno aperto. Ho letto nel gruppo. Chi è che voleva entrare? Avanti. Io sono entrato. Ciao Fra, mi senti meglio rispetto a ieri col Saturnecco? Rumori non ce n'è più, sta a posto. Una bomba, Cla, 9-20 Radio 5 perfetta, di lusso. KK, va bene. Ascolta Fra, stai andando con K tu? K. Allora guarda il segnale, adesso che sgancio l'amplificatore, per vedere se, guarda, così è agganciato, e così è sganciato. Cala di molto. Sei sceso allora, da 9:20 sei sceso a 9. Sono canonata tu da radio. Una canonata. Allora, con la T250 stiamo andando con... Non lo vai tu? 100 watt pieni sta andando, 100 watt pieni. Un capolavoro. Beh, collegato lì, tutto a posto, tutto fatto bene dentro, è chiaro che ti rende bene. Non ci sono spezzoni, non c'è niente, c'è 10 cm di collegamento da un cavo all'altro, ho capito, alimentazione diretta, va bene, ok, vai Daniele. Sì, conferma, e poi c'è anche un'ultima modulazione, va di lusso, bello. Invece USB 300 da 280 watt, 280 watt, quel USB 300 famoso che tu sai. Io ho messo l'alimentazione, i fili dell'alimentazione più grossi, diretti, saldati alla piastra, provato, pulito il commutatore, cambiato un finale. 280 watt da. Io sto usando quello là, lo stesso fa. Tolto il case, tolto tutto, capito, smontato praticamente, beh, nudo, senza mettere tutta quella ferraglia, e messo dentro al posto della scheda ECO, che non serve a niente, non serve a nulla, l'ECO del Galaxy, tutto lì. A parte che fa schifo, scusate, te lo dico, la scheda ECO del Galaxy fa cagare, scusando la frase, è una schifezza, però lì ci potrebbe montare anche la scheda ECO Colt, volendo, capito? Sì, quel lavoro si può anche fare, non è un problema, però abbiamo tolto quella lì perché c'era lo spazio, al posto di quella lì, proprio nello stesso punto, che è uguale come grandezza, è stata messa l'altra, la scheda con lo stadio finale, e basta, tutto lì, capito? Alimentata dall'interno, 12 volts, connettori sono esterni, a fianco l'altro connettore dell'antenna, va bene, questo da 9 a 9 e 20 va bene. Beh certo, è una bomba, va bene anche la radio, bella pulita di lusso alla grande. Sì. Daniele, ma dice che ci vuole anche in quella domandina, ci vuole anche la ricetta di SW+L, se ce l'hai. Se ce l'hai, sì, fra. Se no, niente, resta in bianco. Ma tu non l'avevi presa? No, vai fatta, fra. Ah, io già ce l'ho qua. Brava, brava. Vabbè, adesso non è più obbligatoria, però la chiedo, non vedi? Infatti non lo chiedo, perché io stavo infatti leggendo l'altro giorno, però dice che non c'è più, diciamo, come domanda di essere più bello, capito? Però vedi, nella domandina te la richiede. Eh sì, ho vista, infatti tu, io la sottendiamo. Vabbè, se non ce l'hai, non ne metti, cosa c'è? Tutto lì. Cappa, sì, qua va bene. Adesso ti faccio sentire qua, quell'amplificatore là, quel 300, e mi dai la conferma di quanto arrivo lì. E io, fra, prova. Allora, così è normale, Claudio, guarda un po'. Prova a agganciare, vedete. Così è in prima posizione, guarda un po'. Sì, mi devi tenere la porta e fare gli scatti, fra. Isso Maria. Guarda un po', 1, 2, 3. Vai da 9, 9, 20. Cosa lì dai? Ma sei, 9, 25. Una bestia. Funziona bene, quando le cose sono fatte bene, tutto funziona bene. Appagappa. Adesso ne provo un altro. Questo è il tuo, quello che mi ha avviato tutti i ricordi. E io. Va bene anche quello. Ecco, aspetta. Dato un secondo, arrivo subito. E io, vabbè. E questo è quello là. Però è stato amplificatore, sto scendo liscio. 9, quasi 10, sì. Questo è piccolo, eh. Questo è quello che usavo in macchina, liscio. Quasi 9 più 10, sì, va bene. C'è una bella radio quella. Che microfono stai usando? Adesso è agganciato con un altro B300 con il finale a Moser. Va bene. Allora questa radio qua gli ho fatto lo spezzone e gli ho adattato l'MB più 4, un altro MB più 4 che c'avevo. Va bene, ottimo per la truppa. E il bello di questa radio è che non prende neanche colpi, niente. Che radio è quella? Il Milan? Ma questo è un Midland 80 canali, però non c'ha l'FM. Non mi prendono colpi, no. Solo la 48 prende colpi. Ma colpi, però, cazzo, tu ti immagini, quando io ero a Carbonassi, su 10 sentivo gli splatter dal canale 5 dei camionisti che passavano a Cosoli, dalla 131. Questo è Midland Squash, il 1000, il 100 ml, 100 m cioè. Io va bene. C'ha tutto, c'ha 45, lo porti su e c'ha 80 canali, capito? Oh, va bene, ottimo. Infatti io l'ho aperto dentro a vedere. È pesante pure, per essere una radietto è composto bene. Come componentistica di circuito è bellissimo. Addirittura c'ha le piste tutte stagnate, capito? Allora è nuovo, è tenuto bene, dai. Questa apparecchio era di un vecchio radioamatore ed è morto, mi pare, che me l'ha dato mai tu, capito? Sì, il circuito rimane sul marrone, e poi le piste sono tutte stagnate, capito? E allora, a voglia. Tu non muori mai, qui c'è un trattore. Non muori mai, no. Se funziona bene così, lascialo stare. Ma quel 48 l'ho venduto, non fa, ne prende troppa mondezza. Il 48 è così, Franco, già. È così, 48 è per la macchina. Secondo me è il miglior baracchino per la macchina. Per la macchina va bene, però per casa è un casino. Ma a casa non lo puoi usare in casa, capito? Siete un giorno di Zenni che cazzo prendevo colpi dai camionisti dalla zona di Muros. Adesso è attaccato, il segnale è sempre uguale, ho aumentato qualcosa. 9,20 sì adesso. Guarda adesso. 9,25. E adesso? Quasi 9,30. Cosa ridda? No, già funziona, Flava grande. Lascialo stare. È una bestia. È una bella bestiolina, sì. Questo è quell'altro che stavo dicendo, GTA International. Quello, cos'è quello? B150? Questo è AB300. Ah, è AB300, sì. Ma non è quello che ti ho dato io, questo. Questo è un altro. Quello che mi ha dato tu ce l'ho su. Kappa. No, ma funzionano tutte e due bene, vanno bene. E quello lì c'aveva un finale che io l'ho recuperato, siccome c'aveva un B150, che praticamente non lo stavo più utilizzando, era tutto messo male. E allora ho tolto il finale e l'ho piantato su questo. Poi gli ho fatto l'alimentazione grossa, tutta rifatta da dentro, e non ci sono aggiunzioni, non c'è niente. Nice, va bene, alla grande. Ha fatto un bellissimo, un bel lavoro, fatto bene, pulito. Quando le cose sono fatte bene funzionano bene. E la roba di Gianni è arrivata? No, gli sono arrivati la 23, 2 di 5 la T23, 3, 5 di quelli e gli altri non sono ancora arrivati. Quello funziona tutto, riceve tranquillamente, è ok. Ci manca solamente, mi serve il B754, che è quello del modulatore che ha crepato. Vabbè, vedi se riusciamo a tagliare a posto, che ci tiene un bel quella radio. Io anch'io a questa, infatti non la do. Funziona che è una meraviglia. E infatti, mi hanno detto se non la vuoi aggiustare me lo dici, ma la lasci e me la sistemo io, non c'è problema. No, ma ti aggiustano, ma perché ci tengo. Ho detto, vabbè, appena arriva il pezzo te lo sistemo e te la porti via. Certo, ci tiene. Sono belle radio, poi c'è una recessione favolosa. Io non la stavo più usando e poi abbiamo fatto questo esperimento, l'abbiamo fatto diventare turbo, mettendo appunto l'amplificatorino all'interno, funzionava una canonata, veramente funziona molto molto bene. Oh, vanno bene, e poi non prende neanche colpi, è una radio bella selettiva, capito, non sono come certi baracchini. Ma adesso i baracchini che prende colpi non ne ho più, tutti stati fuori, venduti, anche non me ne posso nulla. No, non ha giù baracchini, c'è la casa piena. C'ho il DAC, il Galaxy e poi c'ho l'Elbex 4082, basta, il resto avevo dato tutto. C'è la casa piena di radio, di microfoni, ma cosa ne fai? Intanto non si via nulla, ne ho tenuto due, boh. Infatti, è così. Aspetta da bere, Fra. Vai, fai. Daniele. C'è anche quel cuoco di Natalino, però stava facendo cosa. Già torno subito io, Fai, già sono qua, non problema. Riesciamo a vederti. Ridda, Daniele, c'è nessuno? Franco, Franco, dica, dimmi Franco, sono qua. Ciao Claudio, adesso mi senti bene? Alla grande, e tu bene mi senti adesso? Sempre la stessa radio stai usando? Sì, sì, sempre il Galaxy Turbo. Chiarissima come modulazione. Bella, presente, forte, chiara. Va bene, dai. Alla grande radio Super 5, bella, chiara, robusta, proprio senza nessun rumore di fondo, proprio chiara, chiara, chiara, qua te la sento. Abbiamo fatto un paio di allineamenti, ieri era una prova così di inizio, dai. Adesso abbiamo fatto degli accorgimenti, delle cosettine, adesso è finita del tutto, va molto bene, 100 watt pieni, alla grande. So, con tutta la potenza stai uscendo, claro. Sì, sì, con tutta la potenza, perché satura? No. No, niente, per niente, per quello che ti chiedevo. No, no, col wattimetro della Kenwood, la T250, che è molto preciso, in scala 200 sta segnando 100 watt pieni. Manco ci muove l'ago proprio, senza picchi, senza niente, 100 watt pieni. Ho capito, non c'è nessuno, io ho acceso adesso, prima ho acceso ma non c'era nessuno, quindi adesso così ho provato a vedere se c'era qualcuno. Ma io mi sono allontanato un attimino a prendermi un caffè, un caffettino, c'era mia figlia, due biscottini, io mi ritiro sempre a quest'ora per deliberare un caffettino. E ho lasciato Franco, Natalino stava facendo qualcosa, mi pare, non lo so, comunque già ce n'è gente in ascolto se vuole entrare. Cappa, io niente, mi trattengo un pochettino perché alle 8 esco e devo essere al lavoro alle 9, c'ho il turno di notte oggi. Quindi mi devo organizzare anche la cena prima, perché sennò poi là è un problema cenare. Non dire a me, ti capisco perfettamente, li ho fatti i turni. Quando facevo dalle 6 alle 2, dalle 2 alle 10 e dalle 10 alle 6 cenavo all'ora delle galline lo stesso e poi partivo. Perciò è così, bisogna andare già pronti. Io stanotte c'ho dalle 21 alle 05, però diciamo sono solo soletto sino a mezzanotte e poi chiudiamo un varco carraio e me ne vado dentro in aerostazione, capito? Lì già c'è l'altro collega, quindi sino alle 5 c'ho compagnia. Mamma mia, lo so. Io ogni ora dovevo uscire fuori a fare i controlli, a fare tutto il giro dell'impianto, con la torcia, vabbè, era già illuminato, però c'erano dei punti dove avevi necessità di fare qualche lettura, perciò avevano la torcia. Ho vissuto quei momenti, poi fortunatamente, al cambio, quando poi siamo passati perché ho fatto il cambio da Banona ad Acciona, per la depurazione i turni non ne ho fatto più, sono passato giornaliero, quindi facevo dalle 7 alle 2 e basta, e quindi ero rinato. A molto sei andato tu in pensione, Ecla? Io definitivamente tre anni, sono andato via 5 anni, capito? Però per i primi 2 anni ho fatto un accordo sindacale aziendale e quindi mi davano il netto senza niente praticamente per 2 anni, però senza lavorare. Capito, sino a raggiungere poi con quegli altri 2 anni il limite proprio economico, dai, già ho capito. Sì, anche da noi qualcuno il prossimo anno se ne va, capito, 60, 65 con qualcosa del genere di queste cose che mi stai accennando tu forse. No, io sono andato a 58 anni, capito, sino ai 60 anni praticamente l'azienda mi pagava con un accordo, capito, mi dava il netto dello stipendio senza straordinari, indennità, senza nessuna indennità, il netto dello stipendio, il netto per 2 anni e poi basta, poi ho fatto la domanda di pensione, capito, come lavoratore precoce, quindi ho usufruito di tutte le agevolazioni e basta, sono andato via, però i primi due anni io ho chiesto appunto se potevo andare via per motivi miei personali, perché la realtà era che non ce la facevo più, stavo scoppiando mentalmente e fisicamente per tutto quello che facevo e tutti gli incarichi che avevo soprattutto. Quindi l'azienda ha accettato, chiaramente non ti pagava i contributi, io non ne avevo necessità perché ero arrivato come contributi, non avevo l'età e quindi insomma, abbiamo fatto un accordo, sindacale aziendale, me la sono cavata bene. Adesso esattamente quindi sono andato via nel 2017, nel 2019 praticamente. Ho capito, come lavoratore precoce, quindi a voglia che avevi maturati i contributi. Bene mera, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare là. Chi vuole entrare siamo qua, non c'è problema, non problem. Quindi tu fai tutto il giro dell'aeroporto, dei controlli, poi una certa ora te ne vai all'interno. Sì, quello, il giro lo fa un altro, il pattugliatore fa i controlli, io invece sono in servizio al varco carraio doganale dove passano gli automezzi e lì funziona fino a mezzanotte, poi dopo la mezzanotte chiudo, mi viene a prendere quel collega lì che ha la macchina di servizio e mi porta dentro e devo stare al varco di servizio all'interno dell'aerostazione, capito? Perché poi accedono da lì personale di pulizie dopo la mezzanotte, manutentori e diciamo può passare gente e quindi ci vuole sempre anche uno. Poi facciamo l'apertura delle porte, disattiviamo gli allarmi alle 4 e praticamente dalle 4 del mattino l'aerostazione è aperta, hai capito? E ci passa la notte così tra una cosa e l'altra. Eh beh sì. Da noi prima o poi è stata dura per me, perché non ero abituato, quindi stavo allerta, capito, era un po' un casino, poi io non ho lavorato mai a Sassari, quindi ero in Gallura, ho fatto tutta la zona di Tempio, ho fatto Fattara, tutta quella zona lì, perciò insomma, stavi allerta nel periodo dei ladruncoli la notte, entravano, ti svuotavano le cisterne del cloro, quindi capito, dovevi stare molto molto attento. E poi invece le cose sono cambiate, impianti di allarme, telecamere, videosorveglianza, insomma, chi ne ha più ne metta, perciò era un rilassamento, ma la rottura di balle che io quando, soprattutto se facevo dalle 6 alle 2 andava bene, se facevo dalle 2 alle 10 andava benissimo, il mio problema era dalle 10 alle 6, perché poi io rientravo a casa, quando ero all'impianto di perfo, rientravo a casa, timbravo alle 6 e arrivavo a casa fino alle 7 meno un quarto, le 7, dipende dal traffico che c'era, e ti buttavi a letto ma non dormivi, alle 8 ero di nuovo in piedi, quindi prendevo il giorno per la notte, capito? Esatto, e così succede a me. Io adesso domani mattina quando rientro, esco alle 5, rientro che sono le 5 e mezza a Sassari, diciamo cambiarti, andare a letto sono quasi le 6, alle 10 solitamente se sono sveglio, perché comunque ci sono rumori, macchine che passano, insomma la gente non è che di giorno si trattiene da lavori, insomma, e quindi che poi ti svegli. Male che vada, poi se ho ancora sonno dopo pranzo mi butto un'oretta e recupero così, se no guai, però già c'ho il libero riposo, per cui poi me ne sto due giorni a casa, capito? Perché faccio smontante e poi c'ho il giorno di riposo. Sì, anch'io se non mi ricordo facevo due mattine, due pomeriggi, due notti e tre giorni di riposo. capito, noi facciamo 4 mattine e un libero, poi 4 sere e finiamo con la notte, però con una sola notte, e facciamo libero e riposo, dai, il libero lo chiamiamo libero, in effetti è smontante, capito, e però già recuperiamo, e comunque al mese ne facciamo 2, massimo 3 di notti, non di più. Io ne facevo 2, facevo 2. Purtroppo, però, ti ripeto, non sputo sul piatto dove ho mangiato, dove mi sono realizzato e fatto tutto quello che serviva, però era un grande sacrificio, credimi, perché oltre alla fatica, alla cosa, c'era anche il viaggio. Io tutti i santi giorni facevo 70, 80, 120, anche 150 km al giorno, solo per andare a lavoro, capito? Era la mia scelta e non ho mai lavorato a Sassari, non mi interessava lavorarci. E sono stato ad Alghero, a Monte Agnese, un anno, e basta. Trunco Reale poi ci scendevo spesso per questioni di lavoro, di laboratorio, eccetera, capito? Campionamenti, balle varie, però servizio non ne ho mai fatto lì. Hai visto oggi che bella giornata, là, da te ci sarà stata la nebbia anche, perché stamattina era anche qua da me, c'era nebbia, nuvole basse e non si vedeva un granché, però di acqua ne ha fatto sino a stasera. Sì, il tempo fa stava piovendo. Stamattina l'ho accompagnata io a mia figlia perché non si vedeva manco l'incrocio di uscita da casa, capito? Quella che è lo scorrimento veloce che arriva da Osioli è pericoloso, e quindi io già sono abituato a viaggiare con la nebbia, con la neve, già non ha giovato di strada con nebbia e neve, per carità. Io ho sempre avuto macchine 4x4, avevo il Volvo, il V40 che era 4 ruote motrici permanenti, ho avuto l'Audi A4, era trazione integrale permanente, 4x4 lo stesso, poi avevo avuto il Baiero che era 4 ruote motrici, tutte macchine che mi servivano per spostarmi al lavoro, per essere sicuro, capito? Poi una volta sono andato via, ho preso un'utilitaria normale, perché sennò era un casino, quando smontavi d'inverno, soprattutto nella zona di Tempio, facevo tutta la fumosa con la neve, e quindi dovevi avere una macchina che ti permetteva di arrivare a casa, capito? Forza, facendo quei tragitti lì d'inverno, se non hai macchine efficienti con o 4x4, insomma gomme antineve, ti devi attrezzare, se no rischi davvero, secondo che giornata trovi, di rimanere bloccato, capito? Quindi è sempre meglio avere macchine diciamo di quella portata che mi dicevi tu, no? Diverse, per me già la strada per Alghero già è scorrevole, tutto diciamo 4 corsie, poi faccio l'ultimo pezzettino che è solo la provinciale, quella qua, 2 corsie ma poco trafficata. Speriamo che completino la 4 corsie sino ad Alghero, così magari il traffico va tutto là, capito? Sicuramente già la completa. No, ma non mi ricordo, molte volte come arrivavo lì all'ingresso di Saccagia, alla stradale, no, vorrebbe tornare indietro perché c'è neve, al bivio di Po, ho detto guarda, io ho la macchina, queste 4 ruote motrici, allora vada, mi facevano passare, capito? Perché era talmente tanta la neve, pericoloso, che no, poi vabbè, tutto rettilineo, lì da provare sino a Pelfo è tutto rettilineo, però è chiaro, se non è una macchina che mantiene strada, che ti permette di camminare bene, non ce la fai, è pericoloso, capito? Tutto qua, vabbè, bei tempi, ma è meglio che non me li ricordi, soprattutto quando ero a Cagliari, perché sono stato anche a Cagliari, dal 91 al 92, quasi 93, inizio 91, fine 92, stavamo costruendo il depuratore della Saras, e lì un'altra basinarda, mamma mia che posto brutto, cazzo, d'estate non si può stare dal caldo, d'inverno ti caghi dal freddo, sta sempre piovendo a San Rocco, sempre. lì d'estate soprattutto si sta peggio, perché pochi alberi, capito? Lì il sole picchia è parecchio, pure non è così qua. Ma se la chiamano l'Africa, ma un caldo allucinante faceva. Ma noi entravamo molto presto la mattina, alle 6 eravamo già a faccia a mari, perché lì eravamo proprio, lo stabilimento della Saras, la raffineria è proprio a mare, quindi noi stavamo lavorando sulla parte della dove arrivano le petroliere per scaricare, quindi stavamo facendo un depuratore di accumulo di tutta la porcheria. Ma ti dico, un caldo già dalle 6 del mattino, solo che elmetto in testa, guanti, maniche lunghe, perché non ti facevano lavorare a maniche corte, capito? Un casino. Mamma mia quanto ho sofferto lì, cazzo, lì ho sofferto veramente. Soli picchia, pensa che il 1° maggio mia moglie con i miei figli sono andati a Cagliari a vedere la sagra di Sant'Efisio, e praticamente mio figlio è rientrato, ci aveva tutta la faccia tutta rossa, proprio cotto dal sole, perché sono messi sul lato, diciamo, del sole soleggiato per vedere la sfilata della processione, insomma, che c'era, dei carri e costumi, e magari sono bastate solo 2 ore, ma e ancora adesso sta spellando, capito? Pensa tu come picchia là, molto più intenso lì il caldo e il sole rispetto al nord Sardegna, capito? Sì, lo so Carlo, lo so, perché io ci ho lavorato lì, quindi lo so. Quest'anno è andata bene la festa di Sant'Efisio, perché in pratica il tempo brutto, la pioggia è iniziato dopo che avevano già portato il santo a Nora, altrimenti avrebbero preso tanta di quell'acqua allucinante, capito? E infatti quest'anno, dopo 2 anni di pandemia che hanno ripreso a fare questa sagra, diciamo, meno male che è andata bene, il tempo è stato clemente, hanno fatto giusto in tempo ad arrivare, poi dopo 2 giorni mi sa che hanno portato lì a Nora il simulacro nella chiesa, poi non so quando lo riporteranno indietro. Sì, anche quella è un bel ricordo, quella l'ho vista dal vivo anch'io, ma guarda, per carità, il traffico che c'era era allucinante, però sono belle cose da vedere, dai, belle cose da vedere. Poi anche perché io ero a San Rocco, quindi ero lì, a Pula, Santa Margherita di Pula, Chia, insomma, Nora non è distante. Si stava bene, io qualche fine settimana l'ho passato proprio venerdì, quando uscivo dal lavoro, anziché rientrare a Sassari, rimanevo lì, capito? Andavo al mare, insomma, ho passato delle belle cose, ma ho preso un bel po' di caldo, tantissimo. D'inverno pioggia, chi più ne ha più ne metta, però è molto calda l'estate, Cagliari, proprio è al confine con l'Africa. Lo so, molto caldo l'ho preso io quando è 6 anni fa, siamo andati tutta la famiglia negli Emirati Arabi, siamo andati sia a Coso, ad Abu Dhabi e a Dubai. Durante il giorno c'erano 47 gradi, anche all'ombra era 44-45, gli operai lì entrano, praticamente lavorano di notte e la mattina alle 7 se ne vanno tutti via, tutti a casa perché non si può più lavorare. Sì, non è che era una bella cosa, però è così. Gai est, vediamo un pochino, Carlo, ti chiedo una cortesia, io non è che chiedo molti controlli, però ho bisogno di questa prova. Allora, se io metto così, praticamente succede qualcosa, la radio rimane uguale o no? Per me è rimasta differenza, Asla. Non ho notato nessuna differenza di modulazione. Aspetta, voglio vedere una cosa.